1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci cari ascoltatori, le 7:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, avete già fatto gli auguri all'alpino Peter Bescapè, oggi è il suo compleanno. Quanti sono? Abbiamo detto 29? No, 24, scusa, 24 anni per l'alpino Peter Bescapè. Allora, auguri ovviamente, oggi parleremo di scuola, il caso raccontato ieri dai giornali di una prof sospesa 20 giorni perché non è intervenuta con tre ragazzi che picchiavano una ragazza disabile, una compagna disabile. A me ha molto colpito il fatto che solo 20 giorni di sospensione per questa prof. Comunque ne parleremo con l'avvocato di una delle ragazze che, diciamo così, ha picchiato la disabile. Ne parleremo con l'avvocato dalle 8:15. Avremo però anche il prefetto Morcone, che si occupa dal Ministero dell'Interno dello sviluppo di tutta la vicenda migranti, ai nostri microfoni alle 8:40. Intanto andiamo a leggere i giornali. È mercoledì 10 giugno, i titoli, il Sole 24 Ore apre su vendite su Francoforte, borse europee ai minimi, questo è il titolo di prima pagina. La questione migranti è ben in primo piano, ovunque per il Corriere della Sera, ecco la notizia che certo non ci fa piacere. Salta il piano europeo sui migranti, i 28 stati divisi su quote e criteri di trasferimento. Beh, non certo una bella notizia. Poi la questione ancora di Mafia Capitale, Repubblica, Marino sotto assedio per Mafia Capitale, si dimette dirigente del PD. Anche il Messaggero, Mafia Capitale, PD sotto assedio. Il Giornale, scandali, amicizie, arresti, 10 domande a Renzi. Si parte ovviamente dalla vicenda Mafia Capitale, che anche sulla Stampa è l'apertura. Mafia Capitale, altri arresti, il Campidoglio è nel caos. Mentre Libero, da caso umano a scudo umano, ed è la figura di Ignazio Marino, il sindaco di Roma. Per il Fatto Quotidiano invece il pizzino, nuovo centrodestra Castiglione, Renzi va sotto sulla scuola. Il pizzino, perché va sotto sulla scuola, per il Fatto Quotidiano, Renzi, in quanto non ha partecipato al voto un membro del nuovo centrodestra. Il pizzino è, come dire, non abbandonate al destino il sottosegretario Castiglione del nostro partito, che è indagato, altrimenti rischiamo di togliervi i numeri al Senato. E non ha i numeri è proprio il titolo del Manifesto. C'è la famosa foto di Renzi davanti alla lavagna che spiega la riforma della scuola. La notizia è che in commissione al Senato c'è stato un 10-10, che vuol dire bocciatura della riforma della scuola. Ma vedremo di che si tratta. Prima però voglio tornare sulla vicenda di Medjugorje. Abbiamo sentito anche nel giornale radio. Beh, e sembra che questa vicenda stia diventando sempre più importante, almeno per quel che riguarda la lettura dei giornali, perché tra l'altro a fine mese è atteso il pronunciamento, secondo alcuni, in Vaticano da parte del Papa, dopo la commissione che ha indagato per stabilire se a Medjugorje ci siano le apparizioni della Madonna e quindi siano dei miracoli accertati, per chi crede ovviamente a queste cose, dal Vaticano, oppure se non vi sia nulla secondo i canoni della fede. E ieri il Papa, senza peraltro citare Medjugorje, non ha citato Medjugorje, ma ha fatto un riferimento che tutti hanno letto in quella chiave, e cioè ha detto il Papa Francesco: dove sono i veggenti che ci dicono oggi la lettera che la Madonna ci manderà alle 4 del pomeriggio e vivono di questo? Questa non è identità cristiana. L'ultima parola di Dio si chiama Gesù e niente di più. Non ce n'è un'altra. Il titolo del Corriere ha queste parole. L'articolo di Gian Guido Vecchia, pagina 25, è questo. Il Papa: cercare i veggenti non è da cristiani. E ovviamente ci si interroga, ci sono almeno una pagina su ogni quotidiano, anche il Giorno, Medjugorje, il Papa gela i pellegrini. Veggenti a orario? Non è fede. una frase di Francesco sembra anticipare il verdetto di fine mese. Addirittura Il Giorno mette questa come notizia di prima pagina con il titolo Superstizione Medjugorje. Ecco, forse questo è un trarre le conclusioni un po' troppo affrettatamente. Comunque viene intervistato anche sul giornale da Fabio Marchese Ragona Monsignor Sigalini, che è vescovo di Palestrina e che dice: io ci sono stato 10 volte, ho trovato sempre silenzio e tanta preghiera, a Medjugorje nessuna baracconata. E che penso dei veggenti? Ne conosco alcuni, per me sono persone serie e motivate, cui la vita non regala né salute né fortuna né vita di famiglia facile. Sono preoccupati di rendere testimonianza a ciò che hanno provato dentro un'umanità normale. Certo, il mistero Medjugorje, questo in tutti i sensi, anche ora per quel che riguarda quello che deciderà il Papa, l'avvertimento di Francesco anche sulla stampa: non vivete inseguendo le rivelazioni dei veggenti. A pochi giorni dalla decisione del Vaticano su Medjugorje, ecco le frasi del Papa che vi ho letto e che fanno molto discutere. Vabbè, non vorrei dire dal sacro al profano, ma dobbiamo parlare di Fedez, il rapper che ancora una volta fa parlare di sé polemicamente, perché che è successo? Questo è un mistero e divergono le vicende e le ricostruzioni al Just Cavalli, locale di Milano, dove Fedez è stato coinvolto in una rissa. Questo è abbastanza chiaro, con intervento della polizia. E le versioni divergono. Gianni Santucci sul Corriere della Sera: Fedez litiga in un locale e attacca i poliziotti, datemi i nomi. La ricostruzione sul Corriere è questa: la ragazza esce dall'ospedale, 7 giorni di prognosi, un taglio in testa, l'altra notte si è ritrovata con la faccia piena di sangue, qualcuno in discoteca ha lanciato una bottiglia che ha spaccato uno specchio e un frammento di vetro le è caduto addosso e l'ha colpita. Ha visto chi ha scagliato la bottiglia? Chiede la polizia. No, ma una sua amica mette a verbale: è stato Fedez. E allora parte la prima denuncia di parte per il reato di lesioni. Poi in mattina un altro ragazzo entra in questura a Milano, ricostruisce la lite e poi dice: dal gruppo di Fedez ci hanno detto che ci saremmo visti fuori e ce l'avrebbero fatta pagare. Secondo reato ipotizzato: minacce. Infine c'è la relazione degli agenti dell'ufficio della prevenzione generale della polizia. In un passaggio sono riportate 2 frasi: siete delle merde, fate un lavoro di merda. A pronunciarle sarebbe stato ancora lui, Fedez. Ed ecco il terzo reato ipotizzato: oltraggio a pubblico ufficiale. Però in mattinata invece Fedez ricostruisce in maniera diversa, si presenta lui in questura e denuncia gli agenti di polizia per abuso di potere, perché dice: sono io che li ho chiamati, perché i butta fuori del locale, mi trattenevano, io volevo andare via, quando sono arrivati ho chiesto anche agli agenti di darmi il nome, loro, e li riprendevo col telefonino, loro si rifiutavano. Tutto sarebbe nato da una richiesta di un selfie. Alcuni si avvicinano al rapper Fedez in discoteca insieme ai suoi amici per chiedere una foto, lui rifiuta e ne ha tutto il diritto, parte qualche offesa, chi ti credi di essere, da qui degenera la situazione, da lì vai a ricostruire che diamine sia successo. Secondo Fedez qualcuno gli ha dato del figlio di così, senza colpo ferire, senza alcun motivo. Vabbè, comunque, su tutti i giornali, rissa per un selfie, Fedez denunciato. Lui dice: non sono violento, sono io che sono stato colpito anche da un pugno e offeso. Questo è su Repubblica. Il giornale: Fedez stecca, ferisce la fan per un selfie. Ecco, sul giornale è già stato lui definito il colpevole, avere ferito una fan. Mentre Filippo Facci, che tra l'altro è stato credo querelato da Fedez o minacciato di querela, no, credo querelato veramente, rissa, insulti alla polizia, la notte del tamarro Fedez. Filippo Facci si toglie qualche sassolino raccontando in questo articolo di questa serata, per quello che almeno è ricostruito dalle agenzie, iniziando così Filippo Facci: ho 48 anni e sto per scrivere un articolo su un tamarro 25enne che ha fatto casino in una discoteca per truzzi e che ieri ha mostrato gli addominali via Twitter. In altre parole, sono un fallito. Ha ragione Grillo, noi giornalisti siamo tutti morti. Lontani i tempi in cui il mio quotidiano mi spediva a San Pietroburgo a seguire concerti, e di musica, mica di Fedez, e in cui un mio articolo poteva far aprire inchieste e dimettere ministri. Inizia così l'articolo in maniera autoironica di Facci, che poi racconta una pagina intera su questa vicenda. Va bene, parla anche Francesco Becchetti, che è il patron di Agon Channel, la TV aperta in Albania e che ora, su cui pende un mandato di cattura proprio dalla procura albanese. Parla con Repubblica Francesco Becchetti: sono vittima innocente del governo albanese, ma non chiuderò Agon. Intervistato da Fabio Tonacci a pagina 19. E ora che succederà, Becchetti? Finirà in un carcere albanese? Male non fare, paura non avere, mi hanno sempre detto. Risponde così da Londra, dove vive gran parte della sua vita. Ho letto le carte, una montatura, tutto questo presunto maxi riciclaggio, sono dedicate 4 righe dell'atto giudiziario. Han sospetti su 3 pagamenti, uno da 12 milioni, un altro da 1 milione, il terzo da 300.000 euro. Sì, ma lei come ha fatto a aprire? Dove ha fatto tutti questi soldi, quei 40 milioni con cui ha aperto Agon Channel? Provengono da una delle più importanti banche d'Europa, non sono un finanziamento ma il frutto di un settlement, un accordo transattivo tra una società del mio gruppo e l'istituto bancario, e non posso rivelare il nome di quale istituto. Ho i documenti per provare tutto ciò. Ce l'hanno con me perché non sono controllabile, la mia TV non è controllabile. La differenza tra Agon Channel e gli altri canali è che noi spaventiamo il governo albanese. Non ho mai preso un appalto pubblico, ma dice: non chiuderò la TV. I quasi 500 dipendenti della mia TV mi chiedono di non mollare. Sì, ma se le bloccano il patrimonio, che succede? Non lo so, vedremo. Così Francesco Becchetti, patron di Agon Channel, intervistato da Repubblica a pagina 19. Vabbè, ma siamo al momento dell'articolo che ci fa pensare di questa giornata. È un articoletto, lo trovo sul Giornale a pagina 16, ma il titolo già dice tutto. Napoli, svuotano le cappelle dei defunti e le vendono come nuove. Così, via! Vram, sfratto a persone o arresti di persone che ovviamente non possono dire la loro. Vecchie cappelle funebri svuotate dei resti mortali, scassinate e rivendute all'insaputa dei parenti dei defunti e anche all'insaputa dei defunti stessi, potete immaginare. È l'incredibile traffico che avveniva nel cimitero di Poggio Reale a Napoli, scoperto dalla Guardia di Finanza, 17 soggetti coinvolti, tra cui un notaio. È una truffa che avrebbe causato un danno patrimoniale anche al comune, stimato in 3.200.000 euro. La cappella, quando arrivavano, non so, si sono accorti perché arrivavano dei parenti del defunto che da tempo mancavano da Napoli, sono arrivati lì dopo 10 anni a dire: beh, andiamo a salutare i nostri cari al cimitero. Vanno lì e trac, cambiati, non ci sono più, ci sono altri resti, così, via, buttati chissà dove e rivendute le cappelle dei defunti. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Fornetti caldi per tutti. Alessandro Milan, il Perozzi dell'informazione. Eccoci qui dal vostro Perozzi. Allora, i migranti, la questione dei migranti, lo scontro non si placa, soprattutto tra i governatori del nord come Maroni e i prefetti. Prima però bisogna dare uno sguardo all'Europa. Oggi il Corriere della Sera dà la notizia più interessante, e questa anche è veramente da tenere le mani sul volante, per la rabbia. Sentite che è l'apertura poi del Corriere della Sera in prima pagina. L'Unione Europea troppo divisa, i migranti non saranno trasferiti. Della serie abbiamo scherzato. Tutta la questione, 24.000 verranno distribuiti nei vari paesi. Secondo il Corriere della Sera, Francesca Basso, pagina 2, si allungano i tempi per il via libera all'agenda sull'immigrazione della Commissione Europea, che prevede anche i ricollocamenti intraeuropei in 2 anni di 40.000 richiedenti protezione internazionale. Gli stati sono troppo divisi, è probabile che prima di settembre non succeda nulla. Niente via libera a luglio, forse a settembre, ma forse, cari italiani, forse. E con questo bollino della solidale, unita, coesa Europa, una barzelletta davvero che non fa neanche ridere, ecco che piombiamo nella questione invece tutta italiana. Oh, Salvini ieri della Lega ha fatto che cosa? Su Radio Padania è andato a dare i numeri delle prefetture, i numeri centralini, intasate di telefonate alle prefetture, dite che ci siamo rotti le balle. Ecco, questo è anche il livello della discussione. Maroni ancora scrive ai prefetti della Lombardia a dire vi diffido a far arrivare qui gli immigrati. In realtà gli immigrati sono già arrivati. Come racconta pagina 3 il Corriere della Sera, ostelli, parrocchie, case di privati, l'arrivo in sordina dei pullman dal sud. Andrea Pasqualetto e Gianni Santucci raccontano come siano arrivati da Trapani, Agrigento, Vibo Valentia, Siracusa, Messina, Crotone. Scendono dai pullman nelle città del nord dopo 15-20 ore di viaggio, entrano negli uffici immigrazione delle questure, poi finiscono in caserme, ostelli. Ci sono persone che hanno messo a disposizione, come questo Claudio Salmaso, imprenditore in provincia di Padova, un paesino in provincia di Padova, che si è preso in casa dove vive con moglie e il figlio quindicenne 10 ragazzi provenienti dal Senegal, dal Gambia e dal Mali, e dice: volevo solo fare qualcosa di utile, mi sono ritrovato in mezzo a 1000 accuse. Il sindaco d'altronde del paese spiega: la gente è preoccupata per le facce nuove, ecco, le facce nuove che girano e che quindi preoccupano anche legittimamente le persone. Il ministro dell'interno Alfano non fa una vera e propria intervista, ma un colloquio con Repubblica, lo sente Francesco Bei, e Alfano si toglie qualche sassolino dalle scarpe nei confronti del suo nemico acerrimo di sempre, vale a dire la Lega, soprattutto Salvini. Dalla Lega solo demagogia, non si governa coi voltafaccia, il nostro piano non cambia. Intanto qui Alfano porta con sé i ritagli del 2011, quando nei giornali Maroni era ministro dell'interno e diceva: striglia i governatori, accoglieteli. E ancora, guardate La Nazione, Maroni avviso ai governatori: nessuno può dire no agli immigrati. E ancora Repubblica del 12 aprile 2011, il Viminale presenta il conto alle regioni, in Lombardia il numero più alto di profughi, devo continuare con questi articoli. Alfano insomma prende questi articoli a dire: dalla Lega è la solita atteggiamento, la Lega di lotta e di governo che oscilla tra il piano istituzionale e la pura demagogia. Quanto alla lettera di Maroni ai prefetti lombardi, risponde Alfano: lasciamo perdere, parliamo di cose serie. Ora vorrebbero perfino abolire i prefetti, ma hanno guidato il Viminale per 1300 giorni e non hanno mai pensato di cancellare le prefetture. Un'altra dimostrazione del voltafaccia. E ancora, Maroni dice: ho la soluzione, apriamo campi in Libia. Che bellezza, è proprio la soluzione che ha in mente il governo. Peccato che prima di poter aprire dei campi in Libia bisogna trovare qualcuno con cui parlare laggiù in Libia. O forse Maroni e Salvini non se ne sono accorti? Insomma, come vedete, questo è Alfano su Repubblica, lo scontro istituzionale continua su questo tenore, che non è un tenore da bello spettacolo, è più da avanspettacolo della politica italiana, io dico a mio modesto avviso. Comunque, se andiamo invece a Roma, che sta succedendo a Roma? A Roma c'è stata una manifestazione, un vero e proprio assedio in qualche modo. Ieri c'era la surroga. Voi direte: che diamine è la surroga? Dovevano sostituire alcuni dei consiglieri. Beh, intanto il Fatto Quotidiano racconta una di queste surroghe, non è male. Al Campidoglio esce l'arrestato tredicine e subentra al suo posto l'indagato Alessandro Cochi. Campidoglio, che cambio! Indagato per arrestato. Pagina 4. Ieri il subentro in consiglio comunale, ma anche Alessandro Cochi, che sostituisce l'arrestato tredicine, è sotto indagine. E dice: io amico di Buzzi, però non mi ha comprato. Questo il Fatto Quotidiano a pagina 4. Che è successo? Una vera e propria assedio pacifico, cioè nel senso manifestazioni al grido di onestà, Marino dimettiti, Marino vattene, e un PD che si arrocca e si attacca appunto a Marino. Come racconta il presidente del PD, che è anche il commissario del partito, commissariato per l'appunto a Roma, Matteo Orfini. Intervistato da Simone Canettieri a pagina 2 del Messaggero, dice: Marino e Zingaretti sono la soluzione. È vero, ci sono bande nel PD, ma non siamo il Partito Socialista. Utilizza questa immagine che certo non farà piacere ai socialisti. Certo, la penso diversamente, c'è stato un pezzo di PD che è vero ha ostacolato Marino, ora emerge che queste battaglie erano forse condotte per motivi poco nobili. Questa è una delle ragioni per cui sono il commissario del Partito Romano. C'era una guerra tra bande. Parla del suo stesso partito Orfini, ma il Movimento 5 Stelle che protesta sfilano prima coi neofascisti sotto al comune. Ora dicono di essere pronti a governare. Bene, questa volta hanno 3 anni di tempo per prepararsi e trovare un candidato all'altezza. D'altronde i grillini sono bravissimi a vincere i sondaggi, ma sono sempre a 0 titoli. Orfini da giorni utilizza questa immagine sul Movimento 5 Stelle, 0 titoli subito dopo le regionali. Sta di fatto che l'assedio al PD è abbastanza a Roma, è abbastanza... netto. Si è scoperto che era truccato anche l'appalto per sistemare la sala del Consiglio Comunale, la sala Giulio Cesare. E a lei si è scoperto anche che Buzzi ha pagato un po' degli stipendi dei dipendenti del PD e quindi Repubblica va a intervistare il tesoriere del PD, Carlo Cotticelli, che conferma tutto, è a pagina 4 di Repubblica. Ma insomma, lei ha chiesto i soldi a Buzzi. Sì, mi ci mandò il segretario Cosentino perché dovevamo risolvere il problema degli stipendi di agosto. E come ho fatto? È rilasciando regolare ricevuta. Scusi, ma per il PD è consuetudine chiedere soldi a un imprenditore, tra l'altro un imprenditore che è appaltatore di comune e regione governate dal PD? Per me è stata la prima volta. Consideri che il partito ormai da molto tempo non riceve più contributi. Andiamo avanti con i soldi della festa dell'unità, le primarie e il tesseramento. Insomma, tutte voci in contrazione. E però succede questo. Succede anche che si è dimesso il segretario, il capogruppo in regione della PD, Marco Vincenzi, capogruppo del PD in regione. Attenzione, si dimette, dice: mi dimetto, dice a Repubblica. Attenzione, si dimette da capogruppo, non è che si dimette dal consiglio regionale a 7.000 euro al mese, si dimette solo da capogruppo. E infine si scopre, sviluppi di Mafia Capitale, che Buzzi entrava anche al Quirinale. Secondo il Messaggero e il Fatto, aveva una talpa. Per il Fatto è l'appuntato dei carabinieri Giampaolo Cosimo De Pascali, che era libro paga del RAS delle cooperative rosse. E così Buzzi poteva dire a Carminati intercettato: mo vado al Quirinale a portare i soldi a quello. Pure al Quirinale entravano. Oh, Mauro Meazza, forse andavano anche da te, venivano a trovarti Mauro Meazza qualche volta. Buongiorno, Mauro, buongiorno. Buongiorno Alessandro, vedo che sei tornato a quella bella, si fa per dire, consuetudine di farmi precedere la notizia su arrestati, indagati, inquisiti. È un periodo in cui cerco delle querele facili, insomma. Ho capito, va bene, vedremo di accontentarti. Invece io ti voglio dire che c'è la proroga. Non c'è il decreto, però c'è la proroga. Che proroga, tu mi chiederai? Appunto. La proroga per i versamenti di Unico per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Però aspetta. Ci sarà. Sì. Nel senso, hanno diffuso un comunicato per dire che poi ci sarà un decreto. Abbiate fede. Ma adesso, no, sì, adesso però non sta a guardare il cavillo. Leggi norme e tributi, che ti spieghiamo esattamente come stanno le cose. La proroga tra l'altro può interessare anche i contribuenti minimi, quindi è importante che si prenda visione di questo che è stato annunciato. Tra l'altro, una proroga, prendo dal Sole 24 Ore, probabilmente la chiede anche la Grecia, perché si sa, una proroga poi tira l'altra come le ciliegie, e quindi la Grecia, che dovrebbe pagare a fine mese mi pare 7 e spicci miliardi, forse gli diamo una proroga anche alla Grecia. Comunque domani giornata molto importante, non voglio usare l'altro aggettivo, per il Jobs Act. E lo dedico tutto al nostro amico ascoltatore Angelino, cioè si può anche dire riforma del lavoro. Aspettiamo il varo dei decreti che concludono l'attuazione della delega. Cosa c'è dentro? Per saperlo, leggi oggi il Sole 24 Ore, che te lo raccontiamo. Tra l'altro si parla anche di un aspetto molto particolare, cioè le mansioni, quindi leggi con attenzione. Posso darti una notizia da dita incrociate? Cioè che forse c'è qualche momento anche di ottimismo. Le vendite delle case stanno un po' ripartendo, anche l'erogazione dei mutui. Ma vediamo, lo raccontiamo oggi, lo confermiamo oggi sul Sole 24 Ore, vediamo, teniamo sempre dita incrociate. A proposito di case, ricordati che l'IMU ti aspetta. Sì, lo so. Te lo ricordi questo? Te lo sei segnato? Ecco. Ricordati che devi morire. No, ricordati che l'IMU ti aspetta. No, sì, certo. Non vogliamo augurare, però dai, le tasse purtroppo. Ecco, l'IMU e la TASI anche ti aspettano il 16 giugno, allora se ti senti poco preparato sappi che ti diamo delle risposte anche oggi sul Sole 24 Ore. Invece non c'è una risposta ancora per il Parma Calcio, caro, ieri c'è stata questa apertura delle buste, ma riferiamo nelle pagine di finanza che, ohimè, non si è trovato ancora un compratore all'altezza. Tu quanto puoi mettere? Io sempre quei 2 eurini. Sì, però qualche ascoltatore ci ha fatto notare che a furia di 2 euro stai cacciando un capitale. Sono arrivato a 4 miliardi, effettivamente. Non valeva la pena di mettere qualcosa di più anziché questi 2 euro una volta, così una per volta. Vabbè, comunque pensaci su, per intanto io ti saluto e come al solito e come di consueto, traffico! Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Questo fu la genesi, questa fu la genesi. Ebbene sì. Allora, prima Mauro Meazza citava la Grecia, devo dire che secondo il Corriere della Sera, Piercarlo Padoan, cioè il ministro dell'economia italiano, non è rimasto molto contento di un passaggio di intervista che ieri Tsipras ha rilasciato proprio al Corriere, cioè il paragone con l'Italia, o comunque il tirar dentro l'Italia nel discorso greco. Come racconta Enrico Marro, a pagina 6 del Corriere, Padoan a Tsipras, basta paragoni impropri con l'Italia, ora faccia le riforme. Tsipras ieri lo ha ripetuto al Corriere, se viene giù la Grecia l'Europa dovrà affrontare a catena problemi molto più grandi come la Spagna o l'Italia, che ha un debito pubblico da 2.000 miliardi. Ecco che questo passaggio in intervista a Tsipras, pubblicata dal Corriere, ha fatto scattare la secca risposta del ministro italiano. Mi spiace che Tsipras dica questo, sono in totale disaccordo, pur essendo simpatetico con la situazione greca. Noi abbiamo girato rotta, stiamo facendo le riforme, spero che tutti i paesi le facciano. Ecco la replica abbastanza secca di Padoan a Tsipras. Simpatetico con la situazione greca, anche se, dice Padoan, la situazione greca oggi è raccontata da Ettore Livini, inviato di Repubblica ad Atene, ed è una situazione, almeno per quel che riguarda la sanità pubblica, davvero disastrosa. I 140 ospedali nazionali in Grecia hanno ricevuto la miseria di 43 milioni di finanziamenti. I servizi negli ospedali, e un viaggio che fa Ettore Livini, sono al collasso. Siringhe e provette riciclate. Niente straordinari pagati ai medici. Insomma, in Grecia è vietato ammalarsi. C'è un austerity nel campo della sanità con un taglio di spese del 94%. Pensate, 94%. Sembra dire veramente che la parola d'ordine in Grecia sia vietato ammalarsi. La crisi greca, cifre alla mano, ha tante chiavi di lettura. Per esempio, ho fatto un viaggio negli ospedali, ho appena dato un'occhiata al magazzino, dice una infermiera. La situazione è disperata. Abbiamo guanti solo per 2 settimane, abbiamo solo 2 scatoloni di guanti. Tavor non ce n'è più. Gli aghi per le iniezioni stanno finendo, i bisturi pure. Ma questo pomeriggio dovrebbe arrivarci una piccola fornitura da un'altra clinica qui vicino. E così, insomma, i medici non vengono pagati da mesi, straordinari, le notti. Pensate che nelle ambulanze mettono 5 euro di benzina per volta. Abbiamo un'autonomia di 35 chilometri. Insomma, questo è il racconto davvero incredibile e impressionante della sanità pubblica in Grecia, fatto da Repubblica. In tutto questo, però, Angelina Jolie e Brad Pitt contribuiscono comprandosi l'isola di Gaia nello Ionio, 4,7 milioni di euro. Angelina Jolie e Brad Pitt danno il loro contributo alla Grecia comprandosi l'isola di Gaia, 4,7 milioni di euro. Tutti a Gaia quest'estate per incontrare Angelina Jolie e Brad Pitt, ovviamente. Oh, non ho parlato della scuola, c'è poco tempo come al solito. Comunque la scuola, sapete, nel disegno di legge il governo è andato sotto, meglio, è andato in pareggio, 10 contro 10. i voti in commissione sulla costituzionalità o meno del provvedimento della riforma della scuola, 10 a 10 vuol dire bocciatura al Senato. Ma Renzi si dice sicuro, dice in aula i numeri saranno diversi. Comunque, c'è anche, vi segnalo un bel servizio di Avvenire, riprende la BBC, pagina 4 di Avvenire, sono le prime immagini che la BBC si è procurata dopo mesi di fatica da Mosul, occupata dallo Stato Islamico nel nord dell'Iraq. A un anno dalla caduta, i primi video rubati e si vedono donne in burka, scritte inneggianti all'Islam radicale, le scuole abbandonate senza acqua potabile e carburante. Pagina 4 di Avvenire è il racconto di ciò che ha fatto la BBC. Siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccolo qua, oggi vince Andrea Scanzi sul Fatto Quotidiano a raccontare a pagina 2 che dopo Celentano, che abbandona la sinistra per Salvini, dopo Ivano Fossati che abbandona Renzi, anche Roberto Vecchioni che dice mi piace Giorgia Meloni e non la sinistra. Il cantautore non è più di sinistra. Ma chi se ne frega!